Signora Annarella! Ma mi senti? Sì, adesso la sento, certo che la sento, finalmente! Almeno, sennò mi avrei stufata, eh! Lo so, lei c'ha ragione, per carità. Senta, ma com'è che ce l'ha così tanto con Berlusconi? Abbiamo sentito un sacco di... Mi fa la parolaccia. No, deve dire quello che si sente di dire. No, perché Berlusconi, sì? A me mi deve dire, come ha fatto i soldi? Ancora con sta storia dei soldi, Annarella? No, ascolta. Non mi faccia travaglio, mica lei è travaglio, andrei con i soldi di Berlusconi, come ha fatto i soldi. No, sentiamo a me. Sì, la sento. Allora, senti una cosa. Sì. Berlusconi. Sì. Qua è tutti sti ragazzi che stanno a morire, è tutta colpa sua. Ma chi sta? Del Bush e del Break, perché se lui andava in Iraq, di Bush ha fatto succedere la fine del mondo, sto disgraziato, sta da mettere la maschera di cera in faccia. Ma... oggi gli ho detto a chi l'ha detto? A chi ho detto? A quelli che mi intervistano. Ah, ok, lei... Allora io ho mandato a dire su YouTube, come che si chiamano. Allora io gli ho detto, se c'è la faccia, sì? Vieni su a Piazza Montecitorio, sì? Che a me ne conoscono pure le guardie tue. Sì, a Berlusconi, questo era un messaggio a Berlusconi, questo qua. Certo, e a chi è? Perché a me il Padre Eterno non mi fa morire. Perché che ti ho sputato in faccia? E vabbè, scusi, se lei vuole sputare in faccia, perché dovrebbe venire a Montecitorio? No, se deve venire, perché io voglio sapere quanto oro nero si è piato da Gheddafi. Quanto oro nero? L'oro nero? Ma capito, l'oro nero a spiaggetta insieme a Previti, ma da di tutto. E che te ne dice la passo liscia? Tanto io vado pure laggiù, dove stanno quelli, i carabinieri a Palazzo Chigi, che mi conoscono tutti. Guardi che prima o poi, secondo me, Berlusconi scende a salutarla, signora. Io ne so, sì, perché sono andata pure sotto casa e manco mi fanno arrestare, perché ho 85 anni, mi devono dare pure i soldi. Che soldi le devono dare? Che ti ho ammazzo! No, Annarella, mica lo vuole. Non posso vedere. Questo si era capito che non lo vuole vedere, non lo può vedere, ma scusi, che c'entra? Però scusi, Annarella, può discutere senza sputargli in faccia, su. No, un po' di civiltà, Annarella, bella mia, su, è nato. Cavolo, sa? Perché mi ha levato 400 euro sulla pensione, sto cornudo. C'è un spazio per tutto il mondo. Scusi, tutto fuorché cornuto, scusi, si può dire, cara. Scusi un attimo, signora Annarella, ma com'è questa storia che lei dice che ha messo le donne in Parlamento? Com'è la storia? Io ho detto pure a Bernini. Alla Bernini io ho detto, ma che gli sta a dire a questi ragazzi che portate le buste al Vaticano per farvi dare i voti? Ma che sta a dire? Ma che buste in Vaticano, scusi? Come no, non ci porta una bustina, sai chi ce la porta? Quel santo vecchio d'Eletta. Ma scusi, che c'entra? Che bustina porta in Vaticano? Bustina dei soldi, che passa dai voti dai preti. Ma non è che c'hanno bisogno dei soldi i preti, abbia pazienza. Ammazzoli! E se pure non c'hanno bisogno, quelli ce l'avano più di lui. Vabbè, gli ho mandato a di pure. Sì? Lui c'è una bella cappella, so mangiano i vermi quando muore. Attenzione. Io ne faccio. Sì. Mi faccio crema e a cenere la minora che sta mettendo dentro un bel vaso e se la porta a casa. Addirittura, signora, non esageriamo, sono cose macabre, queste cose così macabre. Scusi un attimo, ma la storia delle donne in Parlamento che lei ha detto, ho sentito in qualche film. Non ho capito prima... questa cosa delle zinne, scusi, com'è la storia? Ascolta, lui l'hanno operato lì sotto. Sì. E che c'è rimasto un pezzo di pelle? E che ne so, è rimasto un pezzo di pelle? E ce lo dico io! Lei dice... padre, c'è la gomma! E che ne sa lei? Abbia pazienza, signora Annarella. Senti! Vabbè, aspetti un attimo, resti con me. Signor Mastranzo? Eccoci qui. Senta, Mastranzo. Vai dialogare Mastranzo con ex Mastronzo, in realtà. Ex Mastronzo divenuto Mastranzo. Vabbè. Magari Annarella lo conosce. No, non lo conosce. Signora Annarella, sa che questo signore ha passato 8 gruppi, 8 ha cambiato 8 casacche al Consiglio Comunale di Napoli? Annarella? E chi è? È un consigliere comunale a Napoli. Mastranzo. Si chiama Mastranzo, però prima si chiamava Mastronzo. Mastronzo. Sì. Sapevo che